giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Due morti e un ferito grave in uno scontro tra un furgone e un'auto a Castions. È accaduto sulla strada regionale 353 poco prima delle 8. Le vittime, un 67enne e un 37enne, risiedevano a Latisana e a Udine. L'accordo raggiunto al Mimit apre uno spiraglio di speranza per i 350 lavoratori di Adriatronics. La prossima settimana la firma della solidarietà, il 5 maggio il nuovo incontro al Ministero. Preoccupazione e incertezza sono questi i sentimenti diffusi anche oggi tra le aziende della regione dopo l'annuncio dei dazi al 20% del presidente Trump. Stamane attesa la convalida del fermo per Erika Podmenic, la donna di 58 anni, triestina, rea confessa per l'omicidio di Isabella Tregnaghi, 89 anni. Il coltello da cucina utilizzato per il delitto non apparteneva alla vittima, confermano gli inquirenti. Primo volo tutto esaurito sulla rotta Trieste-Praga, un collegamento che mancava dal 2008. Altre novità per l'aeroporto di Ronchi, la Lamezia Terme e Stoccolma, che partirà a giugno. Ancora una buona giornata da Daniele Lettige e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del GR. La cronaca in apertura purtroppo con il gravissimo incidente stradale accaduto questa mattina alle 8 a Castions sulla regionale 353. In uno scontro frontale tra un'automobile e un furgone hanno perso la vita un uomo di 67 anni di Latisana e un 37enne udinese. Lo schianto, un frontale tra un'auto e un furgone alle 8 del mattino a Muzzana del Turniano. L'impatto non ha lasciato scampo ai due conducenti, Enzo Lazzarini, 66 anni, di Latisana, e Dimitri Zornik, nato a Gemona ma residente a Udine, di 37 anni. Il passeggero del furgone, 50 anni, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine con una frattura al bacino, al femore e vari traumi, ma non è in pericolo di vita. Quando sono arrivato qui era già successo il disastro, dice un testimone che incontriamo nei pressi dell'incidente. Era già sul canale il passeggero del furgone quando mi sono avvicinato. Da quello che ha detto i sanitari, che ero lì nelle vicinanze, la macchina ci è venuta incontro, ci è venuta addosso e poi nient'altro. Il furgone è finito nel fossato lungo la strada regionale 353, nei pressi del cavalcavia dell'autostrada a Casali Franceschinis, tra Pocenia e Porpetto. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri di Latisana. Saranno loro a chiarire la dinamica del sinistro. Ad avvisare dell'incidente, tre vigili del fuoco che si stavano recando a Lignano Sabbiadoro in mattinata. Intervenuti i colleghi di Latisana e Cervignano, in sinergia con il personale sanitario, i pompieri hanno utilizzato cesoie e divaricatori per aprire un varco tra le lamiere ed estrarre dall'abitacolo le tre persone coinvolte. Enzo Lazzarini era un impiantista idraulico di Gorgo di Latisana, lascia due figli. Dimitri Zornik, famiglia originaria di Fusine, dopo gli studi si era trasferito a Udine e lavorava da 7 anni alla Beantec, azienda informatica, come analista di dati. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. È attesa questa mattina la convalida del fermo per Erika Podmenic, la donna di 58 anni, triestina, rea confessa per l'omicidio di Isabella Tregnaghi, 89 anni, trovata morta lunedì 31 marzo con una profonda ferita alla gola nel suo appartamento di Via delle Beccherie, nella zona dell'ex ghetto di Trieste. In sede di convalida si terrà l'interrogatorio alla presenza del GIP Marco Casavecchia, del sostituto procuratore Federico Frezza e del legale della donna, l'avvocato Massimo Scrascia. Il coltello da cucina utilizzato per il delitto non apparteneva alla vittima. È la conferma degli inquirenti, che non smentiscono né confermano però che avesse con sé uno scontrino con un importo compatibile con l'acquisto dell'arma, come riportato dalla stampa locale. Il coltello non è stato riconosciuto dai familiari quale utensile della casa, è quanto riferiscono gli investigatori. Di qui a parlare di premeditazione, la strada è lunga. I familiari sono chiusi nel dolore, per il momento riserbo assoluto, dice l'avvocato Federica Fantuzzi dello studio legale Zunarelli, che ha appena formalizzato l'incarico. La Guardia di Finanza di Pordenone ha condotto una serie di controlli alle attività di compro oro del Friuli Occidentale, scoprendo in 3 di esse delle violazioni che hanno comportato l'applicazione di sanzioni da 13.000 a 130.000 euro. Le infrazioni riguardavano mancanze nella gestione delle attività economiche, tra cui la corretta identificazione della clientela e dei venditori di oggetti preziosi e l'omissione delle segnalazioni per operazioni sospette, obbligatorie quando si ritenga che la controparte stia ponendo in essere un'operazione di riciclaggio. Ora i temi economici, preoccupazione e incertezza sono questi i sentimenti diffusi anche oggi tra le aziende della regione, dopo l'annuncio dei dazi al 20% del presidente statunitense Trump. Abbiamo raccolto le voci delle associazioni degli imprenditori. Dal fronte Confindustria, il presidente regionale Zamò ritiene che i dazi al 20% porteranno recessione in Europa. Tutti i settori ne sono colpiti e nel breve serve un'unica risposta unitaria europea, mentre nel medio termine la ricerca di mercati alternativi, afferma. La delocalizzazione per Zamò può essere una strada praticabile per la manifattura, non per l'agroalimentare, per il quale a suo avviso ora aumenta il rischio contraffazione. Saremo tutti un po' più poveri, noi e i clienti americani, è il commento a caldo del presidente di Confindustria Udine Pozzo, che prevede effetti diversificati sugli oltre 2 milioni di export regionale negli Stati Uniti, calato dell'1,2% nel 24 rispetto al 23. Tutte le aziende che esportano saranno ora costrette a rinegoziare i prezzi di vendita coi clienti statunitensi, ciascuna con le proprie strategie, afferma Pozzo, concordando sulla necessità di una negoziazione più che una delocalizzazione che richiede tempi non brevi. Una strada quest'ultima che al momento nessuno pensa di intraprendere, rimarca anche il presidente di Confindustria Alto Adriatico Agrusti. Le politiche aggressive di Trump, sia sui dazi che sulla difesa dell'Europa e il sostegno all'Ucraina, osserva, creano più di qualche inquietudine e indicano un mondo che sta cambiando rapidamente, rispetto al quale l'Europa deve strutturarsi con grande velocità. In questo modo non ci guadagnerà nessuno, e visti anche i precedenti con Trump sui dazi, resta da vedere come andrà a finire, aggiunge Agrusti, mostrandosi fiducioso che alla fine forse si troverà una modalità in cui potranno svolgersi i commerci, ma serve una reazione compatta dell'Europa e un negoziato con l'America, dice. Prevede un impatto diretto anche sulle nostre imprese, dato che gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale per l'export della regione, anche il presidente di Confapi Friuli Venezia Giulia Paniccia, per il quale nell'immediato serve puntare sul made in Italy di qualità e sui prodotti di alta gamma, tra quelli ricercati dai consumatori americani disposti a pagare anche di più, che è già una caratteristica di tante nostre imprese, aggiunge, ricordando inoltre che sono già numerose quelle con stabilimenti anche in America e questo potrà essere un vantaggio competitivo. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. New York, Florida, Nebraska, North Carolina, Michigan, Washington sono alcuni dei luoghi di provenienza degli imprenditori statunitensi, per la maggior parte presidenti e amministratori delegati di società, che domani e sabato faranno una full immersion in alcune aziende artigiane friulane del legno, dei tessuti, della sedia, dell'oggettistica per la cucina e per la casa di alta gamma organizzata da Confartigianato Imprese Udine. L'iniziativa fa parte di un progetto promosso dall'Istituto per il Commercio Estero con l'Associazione degli Interior Designer americana. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno importato mobili italiani per un valore di $1,2 miliardi, con un incremento del 5,4% rispetto al 2023. Un dato analogo alle vendite di sedute made in Italy, che nello stesso anno hanno raggiunto quota €560 milioni. E sempre nel corso del 2024, la performance del Friuli Venezia Giulia in termini di export ha registrato un andamento migliore di quello nazionale, -0,2% contro il meno 0,5% nell'export manifatturiero, -1,4% contro -2% nel settore legno arredo. L'accordo raggiunto al Ministero delle Imprese apre uno spiraglio per i 350 lavoratori di Adriatronics. La prossima settimana la firma della solidarietà. Il 5 maggio il nuovo incontro a Roma. Sentiamo. L'accordo al Ministero delle Imprese del Made in Italy rasserena il clima fra i 350 lavoratori di Adriatronics. Scongiurata la possibilità di azioni unilaterali da parte del fondo tedesco Faircaps, la palla passa ora a un consulente che avrà 6 mesi di tempo per individuare un acquirente, d'intesa con le istituzioni. Per le organizzazioni sindacali invece il prossimo passaggio è quello della gestione della solidarietà. La prossima settimana ci dobbiamo incontrare con l'azienda, spiega Alessandro Gavagnin della FIM CISL, per la firma della solidarietà. Quello che dovremo cercare di fare nell'accordo di solidarietà è dare la massima rotazione in modo da far perdere meno salario a tutti i lavoratori. I 6 mesi di tempo per la ricerca di un acquirente che garantisca l'occupazione aprono uno spiraglio di speranza, ma il risultato non è scontato. Sicuramente gli intenti sono positivi dentro quell'accordo, commenta Antonio Rodà della Wilm. Poi bisognerà lavorarci a stretto giro, perché 6 mesi possono essere tanti ma anche pochi, quindi ci sarà da riempire questo tempo con gli incontri che sono già programmati al Ministero, il prossimo è il 5 maggio, nei quali si comincia a fare il punto rispetto agli interessamenti che ci sono sull'area. Credo che l'accordo dell'altro giorno, conclude Antonio Silvestri della FIOM CGL, sia l'avvio di un percorso che non era scontato, cioè il fatto che la vendita sia caratterizzata da un interesse anche sociale, che non sia solamente la ricerca del profitto a ogni costo. Il valore dell'accordo è proprio questo, avere stabilito dei criteri di vendita che siano rispettosi della tutela occupazionale e della missione produttiva di questa azienda. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo l'incidente che ieri sera ha coinvolto un operaio ricoverato in codice rosso a Udine, questa mattina i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero e un presidio davanti ai cancelli delle acciaierie venete di Buia. Sentiamo. C'è rabbia tra i lavoratori dello stabilimento di Buia delle acciaierie venete. Ieri sera un loro collega di 30 anni, residente a Maiano, 2 figli piccoli, è stato investito da una billetta, una pesante sbarra incandescente che veniva movimentata dopo essere uscita dal forno. Ricoverato al reparto grandi ustionati di Padova, dove gli sono state stabilizzate le ustioni, sembra non siano stati lesionati gli organi interni. I 65 lavoratori sono in sciopero, la fabbrica è chiusa almeno fino a lunedì. Non è il primo incidente, tanto che si legge ancora lo striscione: la sicurezza non si affida alla fortuna. Il delegato Wilm Marco Venier di Benedetto. Neanche un mese fa abbiamo avuto 2 infortuni meno gravi, ma di una rilevanza secondo me significativa, e questo per me non è un campanello d'allarme, ma una campana che suona forte. Fabio Beuzar è delegato FIOM. Quello che chiediamo è serietà dell'intervento ovviamente sulla sicurezza del lavoro, perché questo non è un caso, non è un fulmine a ciel sereno. In mattinata l'arrivo del referente sicurezza del gruppo Simone Mazzoccoli. Quello che è successo ci ha sconvolto perché pare che un'incomprensione abbia portato a un evento così significativo, e quindi siamo qua per cercare di capire cosa si può fare per evitare che situazioni del genere accadano nuovamente. Buia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Semaforo verde alla redazione del piano urbanistico dell'Aussa Corno nei territori produttivi di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Terzo di Aquileia. Il formale avvio è stato dato dall'assemblea dei soci del COSEF, il Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli, che ha approvato l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica. Si avvia così, ha affermato il presidente Marco Bruseschi, l'iter di un processo che porterà all'approvazione da parte della regione del piano territoriale infraregionale della zona industriale Aussa Corno, che consentirà di fornire una pianificazione generale d'area ai territori produttivi dei 3 comuni. Siamo solo al calcio d'inizio di una partita più lunga e complessa, ma finalmente si parte, ha detto Bruseschi. Alle 12.43 siamo al tempo, cielo da poco nuvoloso a nuvoloso sulla zona montana, sereno su pianura e costa. Queste le temperature delle 11. A Trieste 14 gradi, a Udine Gorizia 17, a Pordenone 17,5 decimi, a Piancavallo 8 gradi e 5 decimi, a Sappada 10,5 decimi, a Tarvisio 12, a Forni di Sopra 12,5 decimi, a Tolmezzo 15,5 decimi. Sul Monte Lussari 2 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolan 3. Sulla costa a Lagrado 16, a Lignano 16 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA regionale: nelle prossime ore avremo cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, con possibile formazione di locale nuvolosità pomeridiana sui monti. Arriveranno in Friuli Venezia Giulia nel weekend 2 ragazzi di Gaza che hanno ottenuto altrettante borse di studio da parte del Collegio del Mondo Unito di Duino. Sentiamo Valentina Bach, segretaria generale del Collegio. L'obiettivo è ovviamente quello di studiare, di avere un futuro, ma di averlo insieme. Loro studieranno qui insieme a ragazzi di 82 paesi diversi. Ovviamente un'educazione di eccellenza che gli darà un sacco di possibilità, ma soprattutto un'educazione insieme a ragazzi israeliani, per esempio, e un'educazione che servirà a imparare le parole, i gesti della pace. E questo secondo me è quello di cui avranno più bisogno di tutto. Come sono stati scelti? Come hanno ottenuto queste 2 borse di studio? Soprattutto chi sono e quanti anni hanno? Allora, si chiamano Sara e Ibrahim. Sara ha 17 anni e mezzo, quasi 18, e Ibrahim ancora 17. Faranno qua il 4º e il 5º anno della scuola superiore. E noi abbiamo una commissione nazionale per i collegi del Mondo Unito in 150 paesi diversi. Quella palestinese lavora ovviamente in grande difficoltà, alcune persone sono fisicamente nei territori, non in Gaza, e quindi hanno fatto le selezioni per i studenti gazawi online, e altri ex studenti hanno partecipato anche alla raccolta di queste borse di studio. C'è stato un grande movimento di tutta la comunità IUWC e anche di altre persone che sostengono il Collegio del Mondo Unito, sia in Italia che negli Stati Uniti che nel resto del mondo. Duino, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo oltre 15 anni riparte il collegamento aereo diretto tra l'aeroporto di Ronchi e quello di Praga. Questa mattina il volo inaugurale che ha portato nella capitale della Repubblica Ceca 179 passeggeri. Oggi con questo volo ripristiniamo la nostra storia e la verità. Riprendiamo il filo della storia, così Paolo Petizio, al console onorario di Praga e profondo conoscitore dell'Europa centro-orientale, commenta il viaggio inaugurale Trieste-Praga che ricollega la Mitteleuropa dopo il Trieste-Cracovia e il Trieste-Budapest. Questa regione, e Trieste in particolare, o Aquileia per essere, non poteva restare divisa da Praga e dalla Boemia. Quello con la capitale ceca è un collegamento che mancava dal 2008 e che ha avuto subito un boom di passeggeri. Marco Consalvo, amministratore delegato Trieste Airport. Primo volo, 179 persone in partenza e 179 in arrivo, quindi vuol dire che funzionano in entrambi i flussi, per i residenti che vanno per turismo a Praga e sia come incoming turistico. A proposito di incoming, tra i passeggeri un giovane ceco che ha scelto il Trieste Airport per visitare sia il Friuli Venezia Giulia ma anche la vicina Slovenia. La nuova tratta è il primo esempio concreto della scelta della compagnia low cost di basare il secondo aereo nello scalo del Friuli Venezia Giulia. Le altre novità, la Lamezia Terme e Stoccolma, che partirà a giugno. Abbiamo un fratello lì e quindi stiamo andando a trovarlo. Comodissimo in aereo? Comodissimo, da Trieste è comodissimo. Prima come facevate? Macchina? Treviso. Siamo tanto contenti che il nostro piccolo aeroporto stia crescendo sempre di più, ecco. E speriamo che aggiungano anche altre vette. Ronchi dei Legionari, Anna Vitaliani, TGR Friuli. Friuli Venezia Giulia. Parliamo della carenza di personale dei vigili del fuoco. Per il coordinatore territoriale Michele Cipriani la situazione è critica e rischia di compromettere la sicurezza dei cittadini. I soccorritori sono costretti a svolgere turni estenuanti con difficoltà nella fruizione di ferie e riposi, con il conseguente rischio di infortuni, spiega Cipriani, ricordando come l'organico del comando di Udine sia fortemente sottostimato dal decreto ministeriale del 6 giugno 2024 che ripartisce la dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La pianta organica prevede 311 unità di personale operativo, ma l'organico reale ammonta a 264 unità. Attualmente il comando conta una carenza di 47 effettivi, pari al 15% della pianta organica. Questo senza tener conto di 9 unità che attualmente stanno svolgendo il corso di formazione per il passaggio a caposquadra, dei trasferimenti per leggi speciali e delle 24 unità che andranno in quiescenza entro la fine di dicembre, portando la carenza fino al 30%. Le conseguenze, ribadisce un comunicato della FNS CISL, sono molteplici: rischi per la sicurezza, difficoltà nella formazione, chiusura di alcuni distaccamenti, soprattutto con l'avvicinamento dell'apertura del distaccamento stagionale di Lignano Sabbiadoro e la campagna contro gli incendi boschivi. La situazione, conclude Cipriani, è davvero complessa e richiede misure urgenti per riappianare il personale, tenuto conto dei circa 9.000 interventi di soccorso urgente, dato del 2024, a cui sono chiamati i vigili del fuoco di Udine. Imparare un'arte marziale come forma di autodifesa personale, una tendenza sempre più diffusa, come dimostra l'aumento di iscrizioni ai corsi di queste discipline. Ne abbiamo parlato questa mattina nella nostra trasmissione Buongiorno Regione. Le notizie della cronaca non rassicurano. Sui giornali si parla di violenze, aggressioni e rapine. E se per ogni caso eclatante aumenta la percezione di insicurezza, c'è chi come risposta sceglie di iscriversi a corsi di autodifesa. Roberto Moseni, istruttore di arti marziali. Sono aumentate le richieste e anche i corsi, ci sono corsi di vario tipo e ogni volta che si ha una notizia di violenza la gente ricorre a questi corsi per tutelarsi e cercare di vivere una vita più serena. L'obiettivo è ottenere una preparazione sufficiente per affrontare aggressioni improvvise e spesso servono anni. Tra le cose che si imparano in queste lezioni c'è il metodo globale di autodifesa. Delle tecniche molto semplici che non prevedono l'uso della forza o delle percussioni, ma bensì delle leve articolari, sono solo 5 tecniche di leve articolari, dove anche affrontando una persona più forte fisicamente riesco comunque ad avere il controllo su di lei e al limite, se sono ben addestrato, anche a bloccarla per aspettare l'intervento delle forze dell'ordine se c'è stato qualcosa di veramente grave. Si impara anche la cosiddetta difesa solidale. Mentre tutti quanti cercano di filmare per avere delle immagini, e noi insegniamo anche ad intervenire per mettere in sicurezza la persona aggredita. In queste situazioni è decisivo l'aspetto psicologico che viene esercitato durante i corsi. Autodifesa significa anche autocontrollo, cioè evitare di rispondere alle provocazioni, cercare di non fronteggiare l'aggressore quando è possibile e soprattutto non reagire in maniera eccessiva alla violenza. In quei momenti l'adrenalina è talmente alta che ci porta a fare delle cose che non vorremmo neanche fare, e quindi l'addestramento porta a essere molto controllati ed avere un sistema di reazione idoneo e non andare poi nell'eccesso di legittima difesa. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia appena arrivata, chiusa poco fa la convalida del fermo per Erika Podmenic, la donna di 58 anni, triestina, rea confessa per l'omicidio di Isabella Tregnaghi, 89, trovata morta lunedì, ricordiamo, con una profonda ferita alla gola nel suo appartamento in via delle Beccherie, nella zona dell'ex ghetto di Trieste. Interrogata dal GIP Marco Casavecchia, la donna si avvalsa della facoltà di non rispondere. Lo sport, il basket, Jamion Christian torna a casa. Al termine della stagione lascerà l'incarico di coach della pallacanestro Trieste per diventare allenatore capo della Bryant University della NCAA negli Stati Uniti. L'ufficialità, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata con una nota della pallacanestro Trieste, che prende atto e sostiene la decisione dell'allenatore. In Serie A2, invece, ieri sera l'APO Udine ha travolto l'Urania Milano, mettendo un altro tassello importante nella sua corsa alla promozione. Un altro ostacolo passato con potenza ed eleganza. L'APO in questa stagione è Edwin Moses o Karsten Warholm. Per i più giovani scatta, costringe gli avversari a reggere ritmi folli e taglia il traguardo dopo aver saltato gli ostacoli con naturalezza. Davanti ai pochissimi intimi dell'ex Paralido, Udine si sbarazza anche dell'Urania Milano, squadra che all'andata aveva fatto penare i ragazzi di Vertemati e che in teoria è in piena lotta per i playoff. La partita dura poco, un quarto esatto, tempo dove l'ex amato, talento tanto sublime quanto poco continuo, bombarda dalla distanza con una difesa friulana che non mette la dovuta pressione. 4 triple nei primi 6 minuti, non ne segnerà più nel resto dell'incontro. L'ultima vale anche l'ultimo vantaggio per la squadra milanese, 19-18. L'Old Wild West risponde subito con Caroti e Xavier Johnson, poi prende il largo piano piano. Canestro dalla lunga di Pollazzi, piccolo parziale subito che costa il pari con la schiacciata di Nzie. Poi solo pilota automatico, difesa e canestri da 3, firmati come sempre da Capitana Libegovic e da Daros, con Hickey che chiude il primo tempo sul più 12. La ripresa nei fatti è un monologo. Ikanji fa più 22 a metà del terzo quarto, Ambrosin addirittura più 30. La lunga attesa per la sirena finale concede un inutile rientro sotto quota 20 ai padroni di casa. Finisce 72-89 con Mira da 3 punti dell'APO ancora clamorosa, 18-39, e Hiki, top scorer tenuto, a soli 24 minuti. Stasera l'unica rivale per la lotta per la promozione, Rimini, affronta la modesta Cremona nel recupero. Se i romagnoli perdessero si potrebbe festeggiare la promozione in Serie A dopo 17 anni già domenica, altrimenti si può chiuderla proprio nello scontro diretto al Carnera il 13 aprile. In ogni caso, lo spumante in frigo c'è già da tempo. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E con il basket è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Mauro Cumin e Walter Vidonis. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.